dove la tolleranza sembra più un ricordo profondo. Non bisogna vivere copiando, bensì osservando con i propri occhi, dubitando della gente che non conosci, ragionando con il proprio cervello, cercando di venire fuori da tutto sto bordello. Sai, questa strana vita non si sa come sia cominciata. Sempre detto quello che dovevo fare, ma loro non lo sanno che in questo mondo, dove la tolleranza è sempre più un ricordo profondo, non bisogna vivere copiando.